Benvenuti. Allora, oggi ci immergiamo nella storia di un luogo che definire iconico e dire poco. Il monastero di San Nicolò. L'idea è quella di fornire una specie di guida, ecco, per capire davvero l'anima di questi posti. Sì, ma c'è subito una cosa da dire. Quando si parla di San Nicolò, la prima domanda è quale? Esatto, è proprio questo il punto, perché ne esistono due famosissimi, uno al Lido di Venezia e uno a Catania. E le loro storie, beh, non potrebbero essere più diverse. È un caso studio affascinante, sai, ci fa vedere come uno stesso nome possa generare due identità, diciamo, quasi opposte. Plasmatissime dalla geografia, da una parte l'acqua, dall'altra il fuoco. Perfetto. Allora, partiamo dall'acqua, da Venezia. Le fonti ci parlano di una chiesa, quella di San Nicolò al Lido, che risale addirittura all'XI secolo, contarini. E non era un posto qualunque. Pensa che fu il punto di ritrovo per le truppe prima della partenza della Quarta Crociata. Ma perché proprio lì? Cioè, cosa aveva di così speciale? Aveva un doppio valore, strategico e spirituale. Era l'ultimo avamposto prima del mare aperto, ma soprattutto custodiva parte delle reliquie di San Nicolò, lo stesso di Bari. Ah, lo stesso santo. Esatto, e fu proclamato protettore della flotta della Serenissima. Non era solo un atto di fede, era una dichiarazione politica, capisci? I nostri commerci, la nostra potenza, sono protetti da Dio. E questa simbiosi tra potere e fede si vede benissimo in un rito che ha dell'incredibile, lo sposalizio del mare. Meraviglioso, sì. Le cronache raccontano che il doge gettava in mare un anello d'oro benedetto. Ma, dico io, sembra quasi uno spreco, no? Ma il simbolismo era potentissimo. Con la frase «ti sposiamo, mare nostro», Venezia non celebrava solo il suo dominio, lo sanciva. Era quasi un contratto divino con il mare. Un patto? Un patto, esatto. Un'idea che a Catania sarebbe stata impensabile. Lì la natura non era una sposa, ma una minaccia costante. Pensa che la tradizione, in forma diversa, continua ancora oggi con il sindaco. Incredibile. E il monastero? Il monastero si è trasformato. Da caserma militare in epoca napoleonica a oggi sede del Global Campus of Human Rights, un'evoluzione che dice tutto sulla capacità di Venezia di reinventarsi. Quindi a Venezia un rapporto di dominio quasi simbiotico con l'acqua. Per capire l'opposto dobbiamo andare a sud, dove il nemico non è il mare, ma il fuoco. Esatto, ci spostiamo in Sicilia, al monastero di San Nicolò all'Arena di Catania. L'arena. Perché l'arena? Viene dall'arena, la sabbia vulcanica della zona. E qui, se a Venezia il tema era il dominio, a Catania è la pura resilienza. La sua storia è segnata da due disastri enormi. Il primo è l'eruzione dell'Etna, giusto? Quella del 1669. Sì, e la scena è pazzesca. Immagina un fiume di lava, alto 12 metri, che circonda il monastero. Mamma mia! E si ferma ai suoi piedi, senza distruggerlo. Quasi un miracolo. Viene da pensarlo, certo. Però la storia non finisce lì, vero? No, purtroppo no. Perché, salvato dal fuoco, pochi anni dopo, nel 1693, viene quasi raso al suolo dal terremoto. Una tragedia dopo l'altra. C'è una drammaticità incredibile. Eppure, proprio da quella distruzione nasce la sua magnificenza. Viene ricostruito a partire dal 1702 e diventa un gioiello del barocco siciliano, uno dei monasteri più grandi d'Europa. E oggi? È ancora un luogo di fede? Oggi è la sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Quindi un luogo pienissimo di vita, di studenti. E se qualcuno lo visitasse, troverebbe ancora qualche traccia di questa storia così drammatica? Assolutamente sì. E in un modo potentissimo. All'interno c'è un affresco di Giacinto Platania che raffigura proprio l'eruzione del 1669. Ah, quindi una testimonianza diretta? Praticamente una cronaca visiva, dipinta da chi ha visto la lava con i propri occhi. Stare lì, tra quelle mura, e vedere quell'opera ti fa sentire tutto il peso e la forza di quel posto. Quindi, per riassumere, abbiamo due San Nicolò che sono lo specchio perfetto dei loro mondi. Venezia, con la sua storia di controllo del mare, di rituali, di potere. E Catania, con la sua narrazione epica, di distruzione e rinascita. Un dialogo continuo con la potenza devastante e creatrice del vulcano. Due storie che ci insegnano che un luogo non è mai solo un insieme di pietre. è il risultato di una continua negoziazione con le forze che lo circondano. Questo ci lascia con una riflessione, forse. La prossima volta che si visita un luogo storico, la domanda forse non è solo cosa è successo qui, ma quale forza ha plasmato questo posto più di ogni altra? È stato il mare, un vulcano, la politica, la fede? O forse, come in questi casi, la tenacia delle persone, che hanno continuato a viverci a dispetto di tutto.